Dan Brown All'inferno e basta di Zerlina, pubblicato sull'allegato Domenica del Sole 24 Ore del 19 maggio 2013, a pagina 32. E pensare che ci aveva abituati da tempo, non si può certo dire che siano guizzi dell'ultima ora. C'è stato il Codice da Vinci con le sue trovate ermeneutiche esilaranti, o anche lo spassoso thriller fantascientifico La verità del ghiaccio, incentrato sugli scheletri nell'armadio della NASA e su tutto quello che avremmo sempre voluto sapere, ma non abbiamo mai osato chiedere, circa gli alieni. Insomma, potevamo aspettarcelo. E invece, ancora una volta, davanti alle 522 pagine dell'ultimo romanzo di Dan Brown, Inferno, Mondadori, uscito in contemporanea in Europa e negli Stati Uniti e preceduto da un'estenuante campagna pubblicitaria, restiamo di nuovo sgomenti. Come diamine si può produrre questo sconfinato, indomito, pruriginoso monte di idiozie? Andrebbe tutto bene, no, non andrebbe bene comunque, ma sarebbe un filo meno grave. Se l'ostinato autore non apponesse in incipiti di romanzo la promessa che tutti i riferimenti ad arti, letteratura, scienze e storia si basano su dati reali. Ma perché? È incitazione alla smentita, caccia all'errore più grossolano, istigazione al lancio fulmineo del ponderoso volume. In Inferno, Brown descrive il solito professore di Harvard, Robert Langdon, alle prese col solito enigma, questa volta dedicato a Dante, sbrogliato attraverso sconclusionate fughe tra Firenze, Venezia e Istanbul sullo sfondo di una bella minaccia di guerra batteriologica. I personaggi galleggiano nel nulla letterario e non c'è alcun tentativo di rendere gli episodi vagamente plausibili. Le porte blindate dei musei si spalancano magicamente senza manco un grimaldello e le guardie armate cadono vittime del terribile trucco della cartaccia raccattata in terra. E non si vada alla ricerca di un significato metaforico. Del genere la potenza della carta stampata davanti alla forza bruta o simili. È Dan Brown. Il terra a terra è il suo luogo naturale. La storia comincia con un'amnesia e si conclude con un grosso equivoco, dove i buoni si rivelano un pochino meno buoni, ma cattivi guai, e i presunti cattivi si scoprono filantropi. E vissero tutti felici e contenti. E credetemi, questo non è spoiler, è altruismo.